Razzi su Asmara, fucili in giardino in Germania. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. So there is a very real risk that this become a regional conflict. Already it is actually a regional conflict. Is a big issue. Like, I mean, the army itself, if you train in for the German army, then you have to swear allegiance to the German constitution. I'm not going to give you a question. You are fake news. I hear a sound of victory. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Un buon lunedì da parte mia, ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Con me oggi ci sono Antonio Tali, Andrea Macchioni, Mirel Lucchetti, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti sui due temi che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Mentre la crisi in Etiopia rischia di trasformarsi in un conflitto regionale, dall'Eritrea fino al Sudan, sabato notte il lancio di razzi dalla regione del Tigray verso aeroporti e postazioni militari eritree con un bilancio ancora tutto da stabilire, in Germania un manipolo di artisti dichiara guerra alle infiltrazioni neonaziste nei corpi speciali dell'esercito e indaga sulle sparizioni di decine e decine di armi d'assalto. Queste le due pagine in questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano. 349-238-6666 per voi. Noi intanto sfogliamo, come al solito, i nostri dossier. Il primo ci porta in campo strettamente economico, ma che avrà risvolti decisamente molto ampi anche dal punto di vista geopolitico, perché ieri la Cina e altri 14 paesi hanno dato vita al più grande blocco di libero scambio del mondo, l'accordo sul Regional Comprehensive Economic Partnership, abbreviato in RCEP, è stato firmato a margine del vertice annuale dell'ASEAN, tenutosi in videoconferenza. L'accordo riguarda, pensate, sostanzialmente un terzo di quasi tutta l'attività economica globale. Secondo molti analisti questo aiuterà a dare un volano, un'accelerazione alla ripresa post-pandemia. Oltre alle 10 nazioni dell'ASEAN, l'accordo include Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, ma, udite udite, e non è stupefacente questo, non gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono stati infatti inclusi in questo accordo dopo che Donald Trump si era ritirato dalla Trans-Pacific Partnership. D'altra parte c'è molto scetticismo anche in caso di conferma di Joe Biden, ormai mancano poche settimane, vedremo se le armi legali e giudiziarie di Donald Trump porteranno a qualcosa. Dicevo, ci sono molti dubbi che Joe Biden possa cambiare, virare completamente quella che è la politica estera americana, soprattutto nelle sue relazioni con la Cina. E poi si riscalda il dossier in Bielorussia. Ieri, ennesima domenica di manifestazioni contro il regime di Alexander Lukashenko, migliaia di persone riversate in piazza nelle strade di Minsk e altre città del paese. Secondo l'ONG Viasna, di cui spesso ospitiamo voci e commentatori, oltre 1100 partecipanti sono stati arrestati dalle forze di polizia, il che fa salire il bilancio dall'inizio delle contestazioni a più di 17.000 persone arrestate e a volte torturate dall'inizio appunto delle manifestazioni antiregime, lo ricorderete, scoppiate lo scorso 9 agosto dopo le contestatissime elezioni. E poi si scalda ancora il territorio a Gaza. Ieri l'esercito israeliano ha colpito postazioni di Hamas nella striscia, appunto, in un'azione di rappresaglia, carri armati e aerei da combattimento, dopo che era avvenuto un lancio di alcuni razzi in territorio israeliano da parte, appunto, di alcune milizie palestinesi. Solite dichiarazioni, dico solite perché il tenore, i toni a cui ci ha abituato la leadership israeliana sono quelli, così come quella di Gaza. Netanyahu ha detto: non metteteci alla prova neppure durante la crisi dovuta al Covid, il prezzo di questa continua aggressione sarà molto alto. In realtà non si sa bene su chi puntare il dito, anche se la maggior parte degli analisti, non vi sono rivendicazioni ufficiali al momento, punta il dito sulla jihad islamica palestinese. Staremo a vedere, osserviamo con grande attenzione ciò che sta accadendo in tutta l'area, non soltanto la striscia ma anche la Cisgiordania, perché è evidente che dopo le ultimissime mosse, il piano di Abramo, dopo il piano di Donald Trump per la pace in Medio Oriente, lo avete sentito dal GR, nuove costruzioni israeliane a Gerusalemme Est, ci sono tutte le premesse che la situazione possa surriscaldarsi ancora una volta. Dove invece forse si sta raffreddando la situazione in Nagorno-Karabakh, anche se il bilancio che sta arrivando sia da Yerevan che da Baku francamente lascia senza parole. Il Ministero della Sanità di Yerevan ha riferito che 2317 militari armeni sono morti nel conflitto terminato pochi giorni fa, mentre il Ministero della Difesa della Repubblica del Nagorno-Karabakh ha detto che sono 1383 i suoi militari morti negli scontri. L'Azerbaigian, dal canto suo, non ha voluto fornire alcuna cifra. Secondo il report, soprattutto della BBC, i tanti armeni che stanno lasciando, di etnia armena, cittadini di etnia armena, che stanno lasciando il Nagorno-Karabakh, stanno bruciando le loro abitazioni in modo che gli azeri non vi possano trasferirsi. Staremo a vedere. Per il momento la tregua regge con presenza di peacekeeper esclusivamente russi, anche se la Turchia continua a spingere sull'acceleratore e Erdogan ne ha parlato al Parlamento per poter inviare anche un contingente di pace turco. È evidente che a questo punto anche la Turchia vuole mettere degli uomini, dei boots on the ground, come si dice in slang, per giocare a tutti gli effetti il ruolo di mediatore nella regione. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono i dossier più caldi su cui tendiamo un occhio, sono fatti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo che diventeranno prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso però con Valeria Bernardi andiamo in Etiopia. Rockets are reported to be fired at the Eritrean capital Asmara from neighboring Ethiopia in a major escalation of the conflict between the Ethiopian government and local forces in the Tigray region. It comes on the 11th day of fighting between Ethiopian government forces and leaders in the Tigray region. Thousands of Ethiopians have been streaming across the border, fleeing the fear and chaos of the latest fighting in the north. Durante il weekend il conflitto in Etiopia ha dato segnali di possibile degenerazione e soprattutto internazionalizzazione del conflitto. Facciamo un passo indietro, che cosa è accaduto? Qualche giorno fa il Fronte Popolare del Tigray ha attaccato una base federale in Etiopia. La regione è quella a maggioranza tigrina. Quella regione rea è colpevole, secondo l'amministrazione federale di Addis Abeba, di aver indetto delle elezioni a cui Abiy Ahmed assolutamente aveva mosso le sue rimostranze e il suo veto politico. E quell'attacco però da parte dell'ala armata del TFP ha scatenato l'ira di Addis Abeba, che ha cominciato una vasta operazione militare proprio nel Tigray. Però durante il weekend era circolata voce, per il momento non riusciamo a confermarla, che persino alcune postazioni, tra cui l'aeroporto vicino ad Asmara, sarebbe stato utilizzato da Addis Abeba per colpire questo movimento, questa milizia appunto all'interno della regione del Tigray. Sono 25.000 civili in fuga dalla regione autonoma e molti stanno fuggendo in Sudan. E quindi a questo punto, anche buttando l'occhio velocemente a una cartina, se avete Google Maps sotto gli occhi potete ben capire che a questo punto sono già tre le entità coinvolte: Etiopia, Sudan e, per via traversa evidentemente con l'arrivo di rifugiati, e anche Eritrea. Quell'Eritrea che una volta era acerrima rivale, nemica di Addis Abeba, ma grazie proprio al premio Nobel per la pace nel 2019, il presidente Abiy Ahmed, a questo punto invece è, non dico alleata, però quantomeno hanno ristabilito normali rapporti diplomatici. Secondo il TPLF, il Fronte per la Liberazione del Popolo del Tigray, gli attacchi e la pioggia di razzi su Asmara sarebbe legittima, perché proprio quelle postazioni eritree sono utilizzate dall'esercito etiope per sferrare gli attacchi nella regione. Com'è la situazione in questo momento ad Addis Abeba in Etiopia? Ce lo racconta Samuel Getachew, giornalista di The Reporter Ethiopian. L'ha raggiunto Antonio Talia, vi faccio sentire la sua voce. Beh, ad Addis Abeba c'è un sostegno quasi unanime alle azioni del governo. Fuori dagli ospedali si possono vedere gruppi di persone in fila per donare il sangue o per mandare abiti e alimenti ai soldati. Ci sono inoltre migliaia di persone di origine tigrina ad Addis Abeba. I loro parenti sono bloccati nel Tigray. Mi pare che anche queste persone sostengano la mossa del governo di Abiy Ahmed, dopo un governo dittatoriale al comando per 27 anni, che non garantiva alcun rispetto dei diritti umani, c'è un enorme sostegno al governo attuale. Ma bisogna anche dire che c'è moltissima gente che sta soffrendo. Ci sono madri che stanno perdendo i loro figli ad Aksum e in altri posti del genere. Torna a scaldarsi il Corno d'Africa, quella regione, quell'area dell'Africa dove anche l'Italia ha giocato un ruolo in un passato coloniale che sembra così lontano, ma non è impossibile trovare in quei paesi magari persone più anziane che ancora parlano un perfetto e fluente italiano. Proprio per questo, anche per questo, è utile riaccendere i riflettori su quello che sta accadendo. Attenzione, non è soltanto una tensione etnica all'interno dell'Etiopia, tensioni in realtà mai sopite nemmeno con l'arrivo al potere di Abiy Ahmed, celebrato premio Nobel per la pace, colui che fece la pace con Afewerki, con la vicina Eritrea. Il rischio fondatissimo è che quel conflitto si allarghi, vada a coinvolgere il Sudan, vada a coinvolgere l'Eritrea, e questo naturalmente nessuno lo vuole, nessuno se lo augura. Però, ripeto, il rischio è fondato, lo conferma Wal Allo, senior lecturer in diritto internazionale alla Keele University, ricercatore a Princeton, origine etiope, ben conosce e ben racconta da tempo la situazione nel Corno d'Africa. C'è il rischio che si allarghi il conflitto a tutto il Corno, sentite. Sì, certo, c'è un rischio molto alto e molto concreto che questo diventi un conflitto regionale. In effetti questo è già un conflitto regionale perché l'Eritrea è stata coinvolta e ora la situazione si sta allargando. Il 14 novembre, sabato scorso, il governo regionale del Tigray ha sparato dei razzi in Eritrea, dopo che soldati eritrei avevano preso parte agli scontri, mentre il Sudan sta ricevendo decine di migliaia di rifugiati. Gli ultimi dati che ho visto indicano che sono circa 50.000 i profughi che sono fuggiti dall'Etiopia al Sudan. Inoltre ci sono varie fazioni in Sudan che hanno precisi interessi a schierarsi col governo etiope oppure con il governo regionale del Tigray. Quindi qualcosa che potremmo chiamare un conflitto regionale si sta già svolgendo sotto i nostri occhi, ma i rischi che questo conflitto si estenda e diventi un incubo geopolitico in questo momento sono rischi molto, molto reali. Questo è il commento, l'analisi di Awol Allo, ricercatore in diritto internazionale alla Keele University, ricercatore anche a Princeton, e intanto complice anche una forte presenza sia di etiopi che di eritrei nel nostro paese. Un ascoltatore mi fa presente che è stato preparato un manifesto dalla comunità etiope di Milano e Lombardia. Lo devo sintetizzare per forza di cose, l'ascoltatore non me ne vorrà, quindi sostanzialmente vado al punto fondamentale. Dichiariamo di, e questa è la comunità etiope di Milano e Lombardia, manifestare la nostra solidarietà al nostro esercito che ha subito quel vile attacco a sorpresa delle milizie terroristiche del TPLF. Poi si fa appello alla comunità internazionale perché continuino a sostenere il governo guidato da Abiy Ahmed in questa fase difficile, ma finalizzata a riportare il TPFL nella sfera della legalità e del rispetto delle leggi. Peraltro facevo riferimento a quelle elezioni molto contestate a inizio settembre che Abiy Ahmed proprio non voleva. Credo che questo messaggio ci dia la riprova, la missione di questo programma ormai da anni, Nessun Luogo Lontano, esprime proprio il fatto che anche luoghi apparentemente lontani hanno sempre un riflesso, molto spesso anche a casa nostra. Abbiamo parlato di razzi su Asmara, adesso vi porto in Germania per un'altra storia che ha dell'incredibile e che parte da un elenco di armi. Kg di esplosivi, 31 metri di miccia detonante, 74.161 munizioni, una dozzina di fucili automatici, 11 fucili d'assalto HGG3, 30 canne da mitragliatrice MG3, 23 detonatori, 5 pistole HKP8, una mitraglietta automatica, un RPG, 8 pistole lanciarazzi da segnalazione, 8 tubi per il stoccaggio di missili su caccia da combattimento Tornado. L'elenco che vi ho fatto non è una dotazione militare, magari in forze a un plotone, a un comparto dell'artiglieria o dell'aviazione tedesca, siamo in Germania, attenzione, ma sono il numero di armi, munizioni e componentistiche d'assalto che mancano agli elenchi ufficiali dell'esercito tedesco. Questo è solo un pezzetto della storia. L'altro pezzo, e tra pochissimo capirete perché le due storie sono probabilmente molto ragionevolmente legate, fa riferimento alle profonde infiltrazioni neonaziste di estrema destra anche all'interno dei reparti speciali dell'esercito federale tedesco. Il 6 ottobre scorso il ministro dell'interno tedesco Seehofer ha presentato un rapporto proprio dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione che segnalava estremisti di destra all'interno degli apparati di sicurezza del paese. Secondo il rapporto non si parla solo di alcune forze d'élite dell'esercito tedesco, ma anche di apparati di polizia. Alcuni numeri che il documento e il rapporto segnala: tra gennaio 2017 e 31 marzo scorso sono stati segnalati 319 casi sospetti a livello statale, 58 a livello federale, di cui 44 nella polizia. Tra il 2017 e il 2020 il Servizio federale per il controspionaggio militare, il MAD, che dipende dal Ministero della Difesa, ha segnalato 1.064 casi sospetti di sostenitori della destra radicale, di cui 363 scoperti nel 2019. Questa è una storia complicata che ha a che fare soprattutto con le forze speciali del KSK, che è un reparto d'élite fondato alla fine degli anni 90 e adesso sostanzialmente dissolto proprio per questi motivi. Un lungo elenco di armi, ve l'ho fatto, sparite dagli arsenali dell'esercito e poi cassonetti per restituirle, perché ci si è messa un collettivo di artisti che si chiama Zentrum für politische Schönheit, Centro per la bellezza politica, nome altisonante con qualche afflato elegiaco, ma la loro idea, sono pur sempre artisti, forse un po' folcloristica, è posizionare vari cassonetti in giro per la Germania chiedendo ai responsabili di quei furti di armi da guerra di riporle nei cassonetti e facendo appello alla responsabilità nazionale e all'onore della divisa che indossano. Vicenda complessa, quindi, dicevo, che intreccia furti a tutti gli effetti di armi da guerra, il numero è piuttosto cospicuo, non a livello assoluto, però attenzione, pensate che se radunate nelle mani di pochissimi, stiamo parlando di un arsenale di tutto rispetto e comunque armi da guerra, e poi infiltrazioni neonaziste. Ci racconta di più Ben Knight, giornalista anglo-tedesco che ha seguito la vicenda da vicino e da parecchio tempo. Lui scrive soprattutto per Deutsche Welle. Quanto sono profonde e radicate le infiltrazioni neonaziste nelle forze armate tedesche? Parliamo solo di KSK o anche la polizia? KSK, scusate. Sentite lui. I wouldn't say it was limited to the KSK. I think it's a general problem. I think that it's... No, non direi che è un fenomeno limitato al KSK. Si tratta di un problema più generalizzato che negli ultimi anni sta guadagnando sempre più attenzione mediatica, dato che ogni tanto scoppia un piccolo scandalo. Inoltre, sempre più persone all'interno dell'esercito decidono di parlare apertamente del problema. Quindi sì, è un problema serio. Ricordiamo che se un cittadino entra nell'esercito, deve giurare fedeltà alla Costituzione tedesca, mentre il fine ultimo di questi gruppi di estremisti di destra è ribaltare l'ordine democratico nel paese. I think that it's probably not as big a problem in the general army as it is in like these sort of... Credo però che il problema non sia così grave nell'esercito regolare come invece lo è nel gruppo d'élite del KSK. Ho l'impressione che nel resto della Bundeswehr la presenza di estremisti sia, come dire, più diluita. Questi scandali continuano a venire fuori e hanno una sempre più forte risonanza nell'opinione pubblica. E questo mette sotto pressione il Ministero della Difesa e la Bundeswehr per fare pulizia al loro interno. Stiamo comunque parlando di numeri bassi. Si registrano circa 15 casi l'anno di soldati sospesi per sospetti di estremismo di destra, mentre l'esercito è composto da centinaia di migliaia di soldati. Quindi sì, un numero piuttosto basso, ma sempre più evidente, che mette sotto pressione anche i servizi di controspionaggio militari. L'EMAD. È infatti emerso che alcuni componenti dei servizi abbiano informato membri di una rete di estremisti nel nord della Germania riguardo al fatto che l'EMAD li aveva sotto sorveglianza. Lo stesso vale per la polizia, anche se ovviamente il tutto viene negato. C'è però questa sorta di latente sfiducia nei confronti di come la polizia tratta l'estrema destra rispetto a come tratta i gruppi di estrema sinistra. Un conto però è avere reti di persone organizzate che accumulano armi e le nascondono in cantina. Un altro conto è avere simpatizzanti di estrema destra nelle forze di polizia. La polizia ovviamente non sarebbe d'accordo con questa visione, ma non puoi controllare quello che le persone pensano in privato. Now, the police force obviously wouldn't agree with that, but you can't like control what people think in private, you know? State ascoltando la voce di Ben Knight, giornalista anglo-tedesco di Deutsche Welle, che da tempo sta seguendo una questione che è a tutti gli effetti un dibattito molto presente anche nella vita politica tedesca. Gli episodi sono stati tanti, i numeri apparentemente molto bassi, ma il fatto che i numeri di infiltrazioni neonaziste riguardino elementi delle truppe speciali dell'unità d'élite dell'esercito tedesco è un primo motivo di preoccupazione. E tra pochissimo sentirete come esiste un nesso, quasi fossero due insiemi che si intersecano. Ecco, l'insieme che va a intersecare elementi neonazisti e chi ha trafugato alcune armi, quella potrebbe essere una miccia esplosiva. In gioco c'è l'autorevolezza, la reputazione delle forze di sicurezza tedesche, ma c'è anche, volendo spingersi oltre, la tenuta democratica vera e propria del paese, perché se pensate al tipo di armi che sono state requisite, preoccupa parecchio l'esplosivo C4, per esempio, preoccupano i lanciarazzi da montare eventualmente su aerei da guerra, il che pone evidentemente inquietanti interrogativi, perché quella lunga lista che vi ho citato è forse potenzialmente ancora da stilare, da completare. Mancano cioè pezzi di artiglieria e altre componentistiche all'appello. Tra pochissimo vi farò sentire ancora la voce di Ben Knight. 349-238-6666, qualcuno scrive: non mi stupiscono le infiltrazioni neonaziste, so per certo, così Manfredo da Firenze, anche di infiltrazioni simili che avvengono in Italia. Qualcuno contesta che le armi che abbiamo citato non siano in dotazione all'esercito tedesco. Abbiamo chiesto a Ben Knight, giornalista di Deutsche Welle, perché il Zentrum für politische Schönheit, il centro per la bellezza politica, che fa questi strani flash mob in cui posiziona dei cassonetti magari davanti anche al Parlamento tedesco invitando a restituire le armi rubate, fa sensibilizzazione su questo tema. Cosa ha spinto la ZPS a collegare la scomparsa di equipaggiamento militare alla presenza di estremisti di destra nelle file dell'esercito? Sentite cosa risponde Ben Knight. Oh yeah, there are definitely examples of weapons being found in the members of the army. Ci sono molti esempi di equipaggiamento militare trovato in casa di membri dell'esercito. Il caso più clamoroso risale al 2017, quando la polizia ha scoperto scorte di equipaggiamento militare nel giardino di un membro del KSK. Il caso divenne noto come la rete di Hannibal, dove Hannibal era il nome in codice di questo membro delle forze speciali, un certo Andrei S. Attraverso il suo cellulare hanno scoperto una fitta rete di persone, organizzate in diverse chat online, che testimoniava la presenza di molti membri nell'esercito e nella polizia e più in generale nella società civile, che si stavano preparando per un cosiddetto giorno X, che prevedeva il collasso dell'ordine sociale in uno scenario di guerra civile, nel quale questa rete avrebbe dovuto prendere il comando formando una milizia d'élite. In quel caso si trattò di una rete ben strutturata, che stava mettendo in piedi un esercito ombra. Quindi il ragionamento dello ZPS è fondato su episodi reali, ma la lista delle armi a cui si fa riferimento includono i tubi su cui vengono inseriti i missili in un caccia da combattimento. È quindi difficile vedere come un esercito clandestino possa fare utilizzo di apparecchiature del genere senza avere un aereo militare. Ma la scomparsa di una dozzina di fucili automatici è un fatto allarmante, perché un'arma del genere può essere facilmente usata per un attacco terroristico. That is pretty worrying because a fully automatic rifle you could really use for a terrorist attack. La voce di Ben Knight, Deutsche Welle. Il gravissimo problema che affligge le forze di sicurezza tedesche, scoperchiate da una serie di rapporti, ne stiamo parlando quest'oggi qui a Nessun Luogo è Lontano. Adesso piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse durante questa corsa al vaccino e poi riapriamo la seconda pagina di Nessun Luogo. Nessun Luogo, Nessun Luogo è Lontano. Un vero e proprio arsenale, forse limitato nei numeri, ma alcune dei fucili d'assalto, l'esplosivo C4, pensate addirittura a un lanciarazzi RPG. È un elenco di armi che desta preoccupazione. Questo elenco di sparizioni è stato fornito in un rapporto recentemente diffuso proprio dal Ministero della Difesa tedesco. Da tempo però si sovrappone a questo particolare aspetto, questo dibattito, questa nevralgia delle forze tedesche, in realtà il Ministero della Difesa dice che le sparizioni, tra virgolette, almeno delle munizioni, sono una questione fisiologica, accade in tutti gli eserciti del mondo. Detto ciò, che delle partite di C4, che è un esplosivo molto potente, spariscono dalle mani degli artificieri tedeschi, questo sì, è piuttosto grave. E c'è questo Zentrum für politische Schönheit, centro per la bellezza politica, che si è inventato un paio di armi, a proposito, per usare una metafora attigua, per far venire alla luce, a galla, questo fenomeno. Per esempio, hanno fatto un sito che a tutti gli effetti scimmiotta quello delle forze speciali tedesche, con una serie di indicazioni da fare. Se si è trafugata un'arma, c'è un numero da chiamare per poterla restituire, o c'è un numero da chiamare per fare delle segnalazioni, addirittura una figura di un ufficiale con il suo numero di telefono che compare nel sito. Il tutto giocato su una sottile ambiguità che, come dire, forse getta qualche ombra anche sull'attività del Zentrum für politische Schönheit, che sicuramente sta facendo un'opera meritoria. Diciamo che sulle modalità molto folcloristiche, così come quella di questi cassonetti, che somigliano dannatamente a quelli che magari associazioni del terzo settore fanno anche in Italia, non so se avete presenti quelli della Caritas per il riciclo dei vestiti per la popolazione più disagiata. Ecco, immaginate un cassonetto come quello messo davanti al Parlamento tedesco con scritto: restituite pure qui le armi che avete rubato. Questa iniziativa dei raccoglitori di armi è solo a Berlino, di fronte alla cancelleria, o li avete sistemati anche in un'altra parte del paese? Andrea Macchioni l'ha chiesto a Tilda Rosenfeld, membro e portavoce proprio del Zentrum für politische Schönheit. Sentite. So the biggest container could be found in front of the Chancellery in Berlin. Il raccoglitore principale si trova davanti al palazzo della Cancelleria a Berlino, mentre altri sono stati posizionati in cosiddette zone sensibili, in Baden-Württemberg, nel nord Reno-Vestfalia, nel nord-est della Germania. Per esempio, nel sud del paese abbiamo una lista di nomi connessi al KSK sospettati di detenere illegalmente delle armi. Grazie alle nostre fonti, crediamo che molte armi si trovino nascoste nell'area attorno a Calf, città che ospita il centro di addestramento del KSK. Calf is where the KSK is training. So we chose to make the whole region around it's Stuttgart, Ulm. Abbiamo quindi deciso di definire la regione attorno a Stoccarda e Ulm zona sensibile, non solo posizionando molti raccoglitori di armi, ma anche attaccando poster che mettono in guardia i cittadini sul pericolo. Le armi possono essere ovunque, sotterrate nei giardini, nascoste nel capanno degli attrezzi o all'interno delle abitazioni, come è stato mostrato da altre inchieste. Con i raccoglitori e i poster informiamo le persone e le incoraggiamo a comunicare alla polizia qualsiasi informazione abbiano riguardo alle armi scomparse. Il mistero delle armi da guerra scomparse dagli arsenali, dalle armerie dell'esercito tedesco, in particolare negli ultimi 10 anni. La voce di Tilda Rosenfeld, membro e portavoce del Zentrum für politische Schönheit, adesso la voce invece di Andrea Mammone, docente di storia dell'Europa moderna, Royal Holloway Università di Londra. Professor Mammone, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo. Buongiorno. Professore, come leggere questa vicenda? La Germania ha un problema di rinascita di formazioni neonaziste, però se fosse confermata l'intersezione di trafugamento di armi da guerra e elementi neonazisti infiltrati dentro le unità d'élite dell'esercito tedesco, sarebbe un salto di qualità notevole. Sarebbe gravissimo se tutto fosse confermato, perché qui capisco la dichiarazione del ministero che dice che è fisiologico perdere alcune munizioni, ma come diceva lei, cioè perdere delle esplosive, un lanciarazzi, altra roba, mi pare veramente una cosa assurda e molto preoccupante, anche perché si va a minare la fiducia che i cittadini possono avere delle istituzioni, dell'esercito stesso. Sì. Se armi spariscono, com'è possibile che spariscono delle armi? Sì. Non è che parliamo di una fionda. Sì. È tutto molto tremendamente serio, tremendamente preoccupante. Anche perché non vorrei che alcuni di questi avessero proprio finalità eversive. E questo, è uno dei rischi che alleggia, in effetti, professor Mammone, perché anche il tipo di armi particolarmente offensive lascerebbero spazio a operazioni ad ampio spettro, ecco, per così dire. Beh, certamente, cioè, nel senso, io non credo che qualcuno prenda un lanciarazzi per sparare un gatto che sta per strada. Quindi effettivamente la cosa è preoccupante, anche il fatto che vengono nascosti in una determinata maniera, in qualche capannone, da altre parti, nel giardino di casa, cioè chiunque sembra che, cioè, anche sentendo la persona che parlava prima, sembra forse magari in maniera troppo allarmistica che queste armi possono essere dappertutto. Sì. Certamente vanno monitorati, ci sono associazioni, ci sono ONG, ci sono i servizi segreti che di solito fanno un monitoraggio, soprattutto in Germania, devo dire. Sì. Le reti antifasciste, antinaziste sono molto forti anche dentro le istituzioni, per cui probabilmente, effettivamente, da quello che è emerso finora, no, pare che non ci sia un'organizzazione parallela. Sì. Però bisogna, secondo me, stare attenti, perché nella storia, diciamo, globale, transnazionale dell'estremismo di destra, una tentazione autoritaria, eversiva, è sempre esistita. Quindi non è che parliamo di una cosa che è improponibile, sì, è nelle corde di un estremismo molto autoritario. Non è fantapolitica, lo sostiene Andrea Mamone, esperto di movimenti autoritari e di destra, docente di storia dell'Europa moderna al Royal Holloway, Università di Londra. 349-238-6666, gli ascoltatori, questa iniziativa dei cassonetti mi sembra una provocazione bella e buona, lo è, gentile ascoltatore, è esattamente proprio così. Poi sui nostri canali social posteremo l'indirizzo del sito, che quella è una vera provocazione, che scimmiotta in qualche modo uno dei corpi speciali dell'esercito tedesco, e vedrete con quanta ambiguità, con quanta malizia il Zentrum, per la bellezza politica, cerca di far emergere questa questione. Vi faccio sentire anche lei, professor Mammone, la voce di Fritz Felgentreu, che è membro della commissione di difesa del Bundestag, Parlamento tedesco, portavoce della politica di sicurezza e difesa del gruppo parlamentare SPD, sono i socialdemocratici di Germania. In una recente intervista, sempre fatta a Deutsche Welle, il politico Felgentreu ha difeso le passate riforme volte a sradicare la presenza dell'estremismo di destra all'interno delle forze armate. Forse è il caso però di tornare sul punto, sentite la sua voce. The general idea is that first of all you need political training for soldiers as well as the police. Prima di tutto è necessario fornire ai soldati e alle forze di polizia un appropriato addestramento politico che insegna ai cadetti come pensare in relazione alla nostra Costituzione. Quello che noi chiamiamo il libero e democratico ordine basilare della Repubblica Tedesca. È necessario che venga compreso appieno il significato di questi concetti di base e quali diritti e quali limitazioni comportino. Il concetto fondamentale che deve stare alla base del soldato tedesco è di essere un cittadino in uniforme. Questa è una netta distinzione dal concetto di soldato nel periodo nazista, che era visto come uno strumento nelle mani del potere. Oggi ci aspettiamo che i nostri soldati siano cittadini indipendenti, dotati di pensiero critico, che si considerino parte del sistema democratico. Il secondo aspetto è avere superiori capaci di riconoscere quando il soldato inizia ad abbandonare queste idee fondamentali. Per sviluppare queste capacità, anche i superiori hanno bisogno di addestramento e soprattutto di tempo per addestrarsi. Non possono essere troppo indaffarati in dinamiche burocratiche. Poi è necessario dare ai soldati la possibilità di riflettere sulle proprie azioni. Questo aspetto è particolarmente valido per le forze speciali perché spesso manca il tempo per affrontare dal punto di vista psicologico quello che è successo durante le missioni. Anche per questo motivo è necessario più tempo e più personale per assistere il soldato quando necessita aiuto. Bisogna poi migliorare le connessioni tra le forze speciali e il resto dell'esercito. Da un lato, bisogna sì incoraggiare i membri delle forze speciali a essere dei soldati particolarmente efficaci e preparati, ma dall'altro, è necessario evitare di instillare l'idea di essere un corpo a sé stante con le proprie regole. Da ultimo, dobbiamo essere più trasparenti con l'opinione pubblica. Credo che si sia esagerato con il livello di segretezze. Quando si guarda ad altri paesi, notiamo come ci sia una conoscenza maggiore dell'operato delle forze speciali. In Germania la situazione è particolarmente segretata e questo deve cambiare in favore di maggiore trasparenza e connessione tra il comando Spezialkräfte e le città dove è basato, per esempio, per rafforzare il senso di cittadinanza. So they will feel in order to strengthen their sense of citizenship. La voce e il commento di Fritz Felgentreu, membro della Commissione Difesa del Bundestag, il Parlamento tedesco. Piccola pausa, le strade italiane, poi torniamo su questa incredibile pagina di storia attualissima in Germania. Nessun luogo è lontano. Le infiltrazioni neonaziste in alcuni reparti speciali, le unità d'élite dell'esercito tedesco, i numeri sono esigui, poi però se si interseca questo fenomeno con la sparizione dalle arsenali e dalle armerie dell'esercito di una serie di armi, ho fatto l'elenco a inizio trasmissione, la dimensione del problema assume dimensioni appunto totalmente diverse. Stiamo discutendo con Andrea Mammone, docente di storia dell'Europa moderna alla Royal Holloway Università di Londra, di quanto sia potenzialmente pericoloso questo fenomeno, ma volevo toccare l'ultimo punto con lei, professor Mammone, perché questo può essere un grande motivo di imbarazzo per la leadership tedesca, ma anche un ostacolo a un'autorevolezza di politica anche sul piano estero, quasi come se i fantasmi del passato continuassero a ritornare in forma magari subdola, in forma minoritaria, ma costituissero una sorta di freno a mano tirato, professor Mammone. Questo è un gran problema effettivamente, perché già di per sé la Germania cerca di avere una politica estera, spesso in realtà rifacendosi all'Unione Europea, comunque loro cercano di non alzare mai troppo i toni in politica estera, proprio per paura di risvegliare una sorta di nazionalismo tedesco che insomma ha combinato quello che ha combinato negli anni tra le due guerre. Quindi certamente notizie come queste vanno ad intaccare ancora di più l'immagine internazionale del paese, però devo dire che sono abbastanza fiducioso, nel senso che i processi e le attività di deradicalizzazione, le reti appunto antifasciste all'interno delle istituzioni in Germania, secondo me hanno pochi paragoni nel resto del mondo sicuramente. E purtroppo questo, ribadisco, è un problema che non è solo tedesco, perché fossero anche due mele marce, ma in realtà bisogna capire che cosa volevano fare con queste armi, perché le poche mele marce abbiamo visto che possono in realtà fare degli attentati che sono molto ma molto gravi. Né mi stupisce che ci sia una penetrazione all'interno dell'esercito, perché la penetrazione esiste all'interno della società e l'esercito è comunque parte della società. Il politico socialdemocratico prima, secondo me, ha detto delle cose di buon senso, più che mettere un cassonetto davanti un Parlamento, dove ovviamente le armi non le metterà nessuno, perché ci saranno mille telecamere, tra l'altro. Sì. E peraltro, professore, la interrompo così, rispondiamo a un ascoltatore che mi chiedeva ma qualcuno ha mai messo uno dei fucili d'assalto dentro il cassonetto? No, nessuna arma per ora restituita, però provocatoriamente il Zentrum per la bellezza politica dà una ricompensa di 1000 euro per ogni arma restituita, ennesima provocazione, è evidente che chi va a trafugare, nascondere nel giardino quel tipo di armi anche per 1000 euro, francamente, evidentemente ha un pensiero, ha un'agenda, ha un qualcosa in testa che 1000 euro non possono ripagare. Siamo quasi in chiusura, però professor Mammone, concluda pure il ragionamento. Mi sembra di aver capito dalle sue parole che la Germania ha gli antivirus per combattere questa tendenza che per il momento è minoritaria, però è una tendenza transnazionale cui bisogna sicuramente fare attenzione. In realtà le unità paramilitari sono esistite insomma nelle ultime guerre in Europa, non parlo della Jugoslavia, di altro, Balcani, insomma, sono sempre esistite. Negli Stati Uniti abbiamo delle milizie di cittadini armati, una delle quali, soprattutto Oath Keepers si chiama, hanno attratto quando sembra molti membri attivi delle forze armate e della polizia. Quindi queste sono delle tendenze globali che in un momento in cui c'è forte polarizzazione si rischia appunto quello, l'attentato, anche l'azione solitaria, che ovviamente è sempre meglio quella che un'organizzazione neofascista, estremista, terrorista, però è comunque abbastanza grave, perché sappiamo le conseguenze possono essere tragiche. Certo, e insomma lo slogan, l'hashtag da utilizzare dopo il suo intervento, professor Mammone, a questo punto è monitorare. Io ringrazio tantissimo il professor Andrea Mammone, Royal Holloway, Università di Londra. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata. E siccome questo Nessun Luogo è lontano, il professore ha detto monitorare, noi ci sentiamo domani ore 16 per raccontare. Non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tutti voi che siete stati all'ascolto, l'appuntamento, dicevo, domani ore 16. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.